Oh, L'ansia che vi turbò sto meglio fa in conta guisa ucciderete avervi d'uopo cura dell'esser vostro e non potrei o se mia foste custode veglierei per vostri soavidi ne dite se alcuno cura di me perché nessuno al mondo ama nessuno tranne solo io ma è vero sì grande amor dimenticato mio vivete e voi va un cor sì forse e a quello richiedete ma se ciò fosse non potreste allora celiar dite davvero io non vi inganno da molto è che mi amate ah sì da un anno un dì felice e tarea vivarerò sei nante quel dì tremante vissi d'ignoto amor di quell'amor quell'amor che palpito dell'universo intero misterioso misterioso altero croce croce delizia croce delizia delizia al cor ah se ciò verre concedemi sola mi sta di un fofro amoroso mi soffro un così meno il tuo amore io sono franca scenua altra cercare fede non ho altro e vuol fate? Si folleggiava. Basta ben prestate. Amor, dunque non più vi garba il patto? Io m'obbedisco, parto. Aggiungeste. Prendete questo fiore. Perché? Per riportarlo. Quando? Quando sarà passito. O ciel, domani. Ebben, domani. Io son felice. D'amore vedi ancora. Oh, quanto, quanto amo, quanto amo. Io son felice. Thank you.

giorno, ogni giorno muoia, sempre lieta nel ritro lì. Io vivo quasi in cielo.

angeli tuoi. sarà. Siate, siate l'angiol col sole. L'uomo in più la cavi. Siate, siate l'angiol col sole. E lei sarà. Allor, qual figlia voi dovrete perciò di queste lacrime dal cielo un giorno avrete. Conosco il sacrificio che io consumai d'amore, di sarà su premiato il sacrificio sarà del vostro cuore, d'una pria così nobile sarete fiera allore. Sì, sì, sì. Conosca il sacrificio, io consumo il amore, allora. Il sacrificio, premiate il sacrificio, sarà del vostro cuore. Oh sì, un'opera così nobile, un'opera così nobile, sarete fiere. Thank you.

qual destino ti furò, qual destino ti furò, al natio fulgente sol, o rammenta pur nel duol. Sol su te splendere ancor può, e che pace cara sol su te splendere ancor può. Thank you. barone, i vini ieri ancor pareva per i fritti. Thank you. No, hai? Va sciagurato, scorda un nome che infamato va mi lascia sul vendere a certi giuramento sagrio feci. A chi? Dillo, chi potea? A chi dritto piena vea? Fu tu fol? Sì. Dunque l'ami? Ben l'amo. Or tutti a me. Questa donna conoscete che facesse non sapete. Ataci. Ogni sua ver tal femmina per amor mio spertea, io cieco, vile, misero, tutto accettar patea, ma tempo ancora targermi, da tanta vecchia bramo, qui tostimo. Testimon vi chiamo, or testimon vi chiamo, che qui, e qui pago l'alma, più non ragiono, da lei perdono, più non avrò. Volle a fuggirla, non ho potuto, dall'ira spinto, son qui venuto, orché lo sdegno ho disfogato, m'è sciagurato rimorso.

da questo palpito si attama in pace, senza desistere più non potrei. Ma sangue in vita, mai ridonata, rendo uccidere, non puoi dolore. Scorda l'affanno, donna volata, a me perdona il genitor. Io ti perdoni, l'aria son io, ma solo amor d'annirre in te. L'uomo debba, l'angel mio, mai più dividermi potrà da te. Thank you. non ritorno, grazie re mio. Tu impallidisci. E nulla sai, gioia improvvisa non entra mai, senza turbarlo in me sto cuore. Gran Dio, Violetta! E il mio malore fu debolezza. Cruda sorte! Oh, nulla! Annina, dammi a vestire! Adesso, attendi! No! Vuoi uscire! Oh! la l'alma reina, dirmela, dai vive la Marlina, ma straziati dall'iri, qui non mi trasa il dia, qui non mi trasa. Avrai il cielo.